Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo parlato spesso qui a Smart City di come la modernità, intesa come nuovi stili di vita, di lavoro, di comunicazione, stia avendo un impatto anche sui luoghi in cui viviamo e lavoriamo e su come questi siano in qualche modo costretti ad adeguarsi. Per esempio, vita lavorativa e privata tendono in molti casi a fondersi. Si lavora sempre più spesso da casa, che così ha bisogno di diventare anche un po' ufficio, mentre l'ufficio si trasforma a sua volta in un luogo più flessibile, più luogo di incontro e meno postazione di lavoro. Intanto si diffondono il co-working, il co-housing, le scuole diventano dei civic center. E le chiese? Beh, sentite che cosa ci racconta Federico Pedrocchi. Non so se potremo trovare in internet, dove ci sono miliardi di pagine, un foglio su cui ci sia l'elenco dei luoghi dove un designer non ha mai messo piede, messo luogo, però se c'è questo elenco, secondo me le chiese sono uno di questi. Stiamo per parlare con un designer tedesco, Veit Streitenberger. Benvenuto a Smart City. Buonasera. Veit, un giorno a Francoforte, dove lavori tu, ti ha chiamato il vescovo e ti ha detto: devo cambiare tutte le sedie, quindi l'arredo di base. Di quale chiesa? La chiesa si chiama Tutti i Santi, a Francoforte, vicino allo zoo. E in effetti tu le hai, quante sedie erano? Prima erano 400, ma ormai non vengono più tante persone in chiesa, allora diceva lui a me: 200 ci bastano. Senti, ma perché voleva cambiarle? Aveva delle panchine. La chiesa è stata costruita negli anni 58-59, alla fine degli anni 50, e in quel tempo avevano le panchine fissate. Con il ginocchiatoio, come li abbiamo qui? Ecco, quelli tradizionali. E la parrocchia ha l'idea di fare feste in chiesa, di invitare, di fare concerti, gruppi di arte, di fare mostre di arte, e per quella funzione hanno bisogno di uno spazio flessibile in chiesa. Infatti tu hai progettato un tipo di sedie, ma sono tutte spostabili velocemente, in un'ora insomma liberi lo spazio. Però come la mettiamo con l'inginocchiatoio, visto che qua tu hai trovato una soluzione singolare, perché l'inginocchiatoio il vescovo lo voleva. Sì, per il vescovo era importante di poter usare le sedie nel modo tradizionale. Allora ho avuto l'idea di avere un inginocchiatoio singolare, una piccola panchina per ogni sedia che viene tenuta in posizione tramite calamite davanti a te. È un piccolo basso, diciamo, tavolino sul quale... Sì, ogni persona può prendere un cuscino di feltro e mettersi davanti a sé se ha bisogno. Però questo piccolo tavolino si aggancia alla sedia che ha davanti magneticamente e quindi lo togli anche quello. E per un concerto non hai bisogno. Senti, c'è una cosa curiosa vedendo la foto completa di tutta l'area centrale della chiesa. C'è una sedia nera che però non è una tua idea. No, è una storia buffa. Il vescovo ha avuto l'idea di puntare sul individuo nella parrocchia, che sono tutti benvenuti nella parrocchia, allora anche un tipo un po' diverso, una persona diversa, una sedia di un legno scuro. Quindi un po' un discorso filosofico, simbolico, per far vedere che siamo tutti insieme, ma c'è spazio anche per il singolo, questo? Sì, esatto, è questo che intendeva dire. Senti, è una chiesa cattolica, non l'abbiamo detto all'inizio? Sì, è una chiesa cattolica. Le sedie, se le guardiamo di fronte dall'altare, sono di questo legno chiaro. E poi invece tu hai deciso che? Si è deciso quando entri in chiesa che le sedie ti danno una nuova impressione, una impressione diversa. E ho trovato un rosso sangue nella chiesa. Ci sono qualche mattoni che hanno questo colore terracotta, sangue rosso. Così quando entri hai l'impressione di un colore forte, quando c'è il sole, per esempio, la luce del sole brilla, c'è questa atmosfera un po' mistica. Invece il vescovo, quando celebra la messa, guarda un legno abbastanza tranquillo. Senti, ma questa esperienza, immagino che sia la prima volta che tu fai una cosa di questo genere. Sì, la prima volta, ma mi piacerebbe di andare avanti, sviluppare l'idea più in avanti. E beh, visto che abbiamo parlato di chiesa che si modernizza, impossibile non citare l'iniziativa di una piccola azienda, Meloncelli, che ha messo a punto Ecclesia, un social network dedicato alle comunità religiose e al turismo religioso. L'idea è dichiaratamente quella di creare un Facebook delle parrocchie e dei parrocchiani, con una importante differenza. I contenuti sono moderati, nessun commento può essere messo online senza la previa autorizzazione del parroco o della persona da lui delegata. Ecco, questo forse, anche se un po' si capisce, non è il massimo della modernità. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.